Gianmarì! Ehi, trombi, trombi! Sì o no? Oh, Giulia! È bel giro, vedi, no? Oh, grazie da resi che mi sa, sì, giù, a me del numero televisore. Ah, però l'apparecchio non l'hai acceso, però. Che hai chiamato? Ah, già ti l'hai detto, l'hai già acceso da resi che mi sa, a me del numero televisore. E allora, un bel senso alla televisione, di sto... cosa stavo guardando, la partita? Il Belgio. Oh, abbi qua. Stavo guardando come facevano la modifica cosa di 400 canali alla 497. E penso a papà intendichissimo e l'ha preso un tubo. Che dolore. Sì. E perché ce lo dicono in inglese, cazzo, è che non mi ingheggi. Io gli ero macchinato, fa vedo, cazzo. Bisogna macchinare, bisogna. Ehi, allora, ho visto come toccano i tassi, però ho provato. No. Ti esce la numero 5, ti esce la L, però no, i canali non arrivano. Ah, cosa gli devi far cambiare? Ah? Cosa gli devi far cambiare? Stavo provando il 497, se aumentava, perché dice che questi vanno qua 300 canali, ma io non sono mai riuscito, rimane sempre 40 canali e basta. Giulia, quindi sono un po' difficile a farlo fare, bisogna mantenere inglese. Sì, va bene, male, mi scriva ancora, da studiare inglese, ragazzi. Ragazzo, chi c'è? In cosa si muove a fare da? Chi c'è, va a essere lontano, però, Sì, tutti si tornati, uscito. Sì, o era in FM o in USB. Noi siamo in AM, non possiamo andare su lungo. Sono in AM, possiamo andare due e basta, boh. E io che butta pure in FM, potremmo sì. Ah sì. E che vada più, boh. Già andava così, già andava così, to. Sì, se no mi... E figlio, giro la manopolina e arrivederci. E allora, cazzo, già. Io sicuro. Ma cosa vuoi fare? No, qua era acceso sempre. Però ha abbassato il volume e stavo al computer, hai capito? Però no, ogni tanto sentivo una portante. Però non parlava. E forse quando ho fatto le chiamate non mi hai sentito allora. E perché c'era il volume basso, capito? Perché avevo messo le colonnine ferre al computer per sentirsi più bene amplificate, capito? Io ho due piccole colonnine e ce le ho tutte e due attaccate all'apparato. No, li ho attaccati al computer io, capito? Lo accendo e sento tutto quello che dicono, capito? Più forte, più bene. Sì, no, nel computer ho altre colonnine io. Questa ce l'ho attaccata qua. Sì, anch'io ce l'ho la colonnina esterna, capito? Ed è attaccata. Sicché la sento bene ugualmente, si sente bene anche con la colonnina sua, però è meglio con la colonnina esterna, dai, e rimane più chiara, più potente. Infatti io ne ho tutte e due delle cose piccole, ma sono dello stesso coso dell'apparato. Escono benissimo, escono, la voce chiara. Ma queste sono due colonnine dello stereo che avevo, capito? Tonde, sono due colonnine tonde, di cristallo, e in mezzo c'è l'altoparlante. È bellino, quei piedi che si appoggia sopra. Sono belle, però ne ho attaccate una solo, perché bisogna attaccarne due, capisci? Io le ho fatte tutte e due a serio, le ho fatte tutte e due collegate assieme, ma qui ce ne più bene, se ce ne è una entra in due. Sì, basta mettere lo spinozzo serio e li senti tutte e due. Sì, no, ma io nel coso ho messo lo spinozzo che entra a mono ed escono stereo. Comunque si possono fare, dai. Basta metterlo, non ho provato, però penso che mettendo, siccome adesso è mono, perché c'è uno soprannante solo, se dovessi mettere quello posterio a 4, allora mi senti tutti e due, capito? Io ho lo spinotto che entra mono, però c'ha due attacchi, hai capito? Per le colonnine. Ah, così è. Anche quello, anche così si può fare. Sì. E io l'ho toccato un altro. Sono avanti, per cui ah, va bene. E sono da 4 ohm, 5 watt, tutte e due. Queste non lo so veramente come sono, perché queste sono attaccate alla colonnina grande, erano attaccate queste. Infatti io le ho separate, le ho messo queste due qua, ho attaccato. Quella grande è da un'altra parte. Vabbè. Poi c'è il mono e c'è lo stereo, capito? Infatti. Quella lì era tutto il coso completo per il computer era. Vanno bene. Sì, al computer avevo preso questo amplificatore, da 10 watt questo amplificatore, che ha due colonnine, una accende e c'è il volume e lo stereo, e poi da quella lì c'è un cavo e va all'altra colonnina, l'attacca al computer e li senti tutti e due, capito? Io ho la colonnina grande, che esce in coso, mi pare 30 watt, e più queste due colonnine piccole. Ma vanno bene, dai. Però come regola, come uscita buona, dovrebbe essere 8 ohm e 5 watt per il baracchino, va benissimo. Ti esce più perfetta la radio, capito? Infatti escono così. Escono molto bene queste due qua a Puglia e aspetta, mi intendo e adesso che l'hanno ma che intendo tutto amplificato. Vanno bene. Sì, si sente bene anche lo sto parlando suo, però è meglio, vai. Rimane più pulita con l'esterno. Se rimane più pulita. È pulita da quanto, già si sente benissimo e a Puglia. A Puglia, ma e cosa vuoi fare? Non si è sentito nessuno ancora. Oggi è pulita la radio, non si sente nessuno da fuori. Infatti, fanno bene, là. Fanno benissimo a Puglia e anche troppo direi. Scusi, deve essere che il coso non ho. Oggi è tutto calmo. Tutto? QRM oggi è tutto calmo. Un attimo, il telefono so. Piaggio Marisse. Sì, mia figlia, il telefono. Allora. Ma ti ho fatto la dormita, gatta. Mi resta la città da Carisovaggio, la barrocchiera, a far liberare Edda, così che era di dormito. Quasi 4:20, dai 2:30. E allora Gian Maria, tutto bene oggi, sì? Ah? Tutto bene? Tutto bene. uscito sì stamattina. Beh, a Piazza Lissesi siamo saliti. Dopo siamo entrati a Cosimo, a Orupigua, scendendo. Insomma, si è messi a fare la passeggiata, l'aveva regato un cofano bien. Un cofano bien non è regato. Guarda cosa ti hai fatto, tutti i bancarelli. Aspetta, è una cosa incredibile, sempre così, allora, sempre due, vabbè due. Senti, qua sullo stesso pianoccio c'è mio figlio e i miei nipoti, e a Magnalei di Bulu, per cui è questo e quest'altro, e allora la mamma è questa qua, la nostra nipote, quella l'altra nostra nipote, e uia. Hanno già neanche e mi ha tutto canto. Beh, così noi cosa mangiamo? Noi mangiamo cosa, quasi niente. Già mangiamo, già, noi che non mangiamo. Però dai, fare ma stessi la cosa, dai roghi, vai. E una volta che si esce magari è chiaro che vedi questo che ti interessa e lo prendi, vedi quell'altra cosa che ti interessa e lo prendi, e così via. Ma è una cosa incredibile. E allora, Bellone, Zindria, cazzo, Furio, Cosio, Cariagia, cazzo, boh, fai due secca, cazzo, oia. Bisogna rimanerci gaini, bisogna rimanerci. A voi a farli la sopra, cazzo. Oh, è stato un buco, ancora in basso un magazzino. Dopo scende mio figlio e me ce li porta su. Certo, che roba bizzarra, allora, da Faleta, da Nizza. Io sto cercando, hanno fatto io, anche io. Mi moglie di può pigliare un mondo. Così, state in calma. E da voi si mandavi a Cozzo, a quel negozio dove c'è Carrefour, tutto sporco. A to con gli aggappanovi e poco roba, cazzo. Della paese di un po' di roba, vedi già poco biciclette di tutti i tipi, cioè. Ha visto di caccia a copertone, 3 miraggi biliati. Hai fatto bene, non manco così. E anch'io ce li ho, io ce ne ho 2 in ferro e 3 in plastica ne ho. No, qua ce ne sono 3 in plastica, ma è una che della bomba, e ce l'ho la poppa piccolina che ci sta anche dentro il mauletto, però la poppa quasi niente, e stavo cercando proprio una poppa, anzi sono dovuto andare via a Pachisa, di Abresa, andare via, e così che, ma ci sono tante di quelle pompe belle, grazie, sta, per mettermi dentro il mauletto, capito? E più la scatola dei rattuppi, capito? Non si sa mai, capito? Ma mi piace averla questa cosa, non si sa mai, buchi e c'è tutto pronto, capito? Buonasera. Buonasera, no, io ho il coso, Gio Marino, la bomboletta che ti gonfia il copertone, ti gonfia il copertone, la camera d'aria ti gonfia una volta che l'hai aggiustata. Aspetta che facciamo entrare, buonasera, avanti, buonasera. Sì, buonasera a tutti, Gianfranco. Quelli tra i ciclisti oggi? No, io non ne ho visto per niente sul canale 2, ma no, la partita stavo guardando. No, ho detto oggi è un canale di ciclisti questo. Riprendi Giovanni, ciao a tutti. Buonasera Gianfranco, ben entrato. Stavo dicendo, cioè, ma è la bomboletta, cazzo, quella, vabbè, c'è da arrivare, dopo ce la guasta però quella roba, la camera d'aria. No, è bomboletta d'aria, non è cosa per, ti gonfia solo la camera d'aria, basta. si gonfia, e invece di usare la pompa usi quella lì, se la gonfia subito, in 2 minuti è gonfia. E non perde più? No, perché tu aggiusti la camera e metti il rattoppo e poi la gonfi. Oh. Ma la pompa è meglio averla, che perlomeno, perlomeno. Costa poco, ha preso una scatoletta qui, ci pizzoppo, un cavolo si chiama, la mette nel bauletto insieme a tutta l'attrezzatura e vabbè, ragazzi, poi magari per costi lontani non ci vado io, però mi piace averla, capisci? Lo so, anche io ce l'ho sotto il cellino, ma lo sono messo anch'io tutto il coso che ho, e c'è questa bomboletta qua che ho preso e serve solo per gonfiare e basta. Ma non è sotto il cellino, c'è tanto buon vecchio. Oh, io ho un affare che ho comprato che si attacca al cellino, si attacca, capito? No, quello ce l'ho anch'io, però attaccato al vicino allo sterzo, sul lontarone che porta allo sterzo. Io invece quello che ho io va attaccato al cellino, sotto il cellino va attaccato. Ed è una cosa borsetta azzurra e ci sta un sacco di cose dentro. Lo so, però a volte dipende dalla stella, io ho la stella fine. Giamali, poi succede come è successo a me, che ho preso la bomboletta, no, quella proprio per riparare fuori, è nuova, con uscita l'altra, ho perduto il tappo, l'adattore, e adesso c'ho la bomboletta nuova, non c'ho l'adattore, quindi non serve più a niente. Ma non è che me ne intenda, perché magari da giovane magari queste cose non esistevano, c'era solo il cipitofo, o qualche volta la camera, perché ho avuto anche la bicicletta da corsa e magari si rattoppava così alla bella miglio, oppure si faceva con un pezzo di spago, si legava dove era bucata, si gonfiava anche se saltellava, però arrivavi a dunque, capito? Mentre a essere sono uscite tutte tante di quelle cose nuove, per cui conviene avere queste cose per se dovessi succedere qualcosa, capito? Sì, Giovanni. Guarda, io ho comprato, adesso mi devono arrivare, tra l'altro, siccome io faccio uscite un po' lunghe, stamane ad esempio su fuori ho fatto 35 km in mountain bike, con quella raccolta, sono anni che non la uso, ce l'ho, ma sono anni che non la uso, e su quella quando ero più giovane facevo anche 80 km ho fatto, ma altri tempi. No, io ho fatto arrivare direttamente alle camere d'aria, diciamo, come si chiamano, antiforatura, che se buchi immediatamente si riparano da sole, capito Giovanni, perché se no si perde troppo tempo lì a smontare il copertone, la camera d'aria, a rimetterla, è un po' un macello, capito? Poi in strada viene male. Lo so, e da me viene anche più male, sì, perché c'è tutto un saccaccio di ingranaggi da me, la rotta è dietro, catta. Magari davanti rimane più facile, le toglie la ruota, ma lì dietro è un macello, perché ci sono i cosi di smosso sul cambio, ci sono i parafanghi, ci sono tutti questi fili per gli ingranaggi nel tamburo elettrico, per cui c'è un macello. Certo che la bomboletta così è l'unica soluzione, almeno si mette la bomboletta e la gonfia si è a posto, capito? È vantaggiosa questa Gigio. Adesso non mi piace il nome dell'altro che era con noi, la vecchiaia. La memoria sta andando, Tore, com'era Gianni? Oh, hai detto bene, Tore. Eppure non ce ne dimentica mai nessuno di me. andare vero Gio Marino. È facile. Ma sai com'è quando si inizia a diventare diversamente giovani? Sì, vabbè. Sì, io sono cubigili. Non vedevo di non me ne ammento. Pensa un poco. E perso già la memoria. Sì, anche poi me ne metto i ghiaccioli, come ti dice già, e gli altri. Bubu. L'età, l'età è tu. Infatti, bisogna andare piano piano, bisogna andare. Anche se no, saremo troppo in presa, arrivederci. Oh, con la calma, cazzo. Sai che io ho un problema, però devo riuscire a risolvere questo problema, siccome la mia è da donna, no? Però siccome la batteria prima arriva fino sotto il sedile, così che io non ci arrivo perfettamente, cioè, l'altro giorno sono caduto e come un pezzo di un sacco di patate. Mi sono vado a fermarmi, come ero già fermo, andavo a mettere i piedi per terra, se non ci arrivavo e mi sono coricato sempre la bicicletta. Perché il sedile non abbassa che tocca leggermente il coperchio della batteria. Cazzo, devo trovare un sistema di abbassare almeno 2 centimetri, in basso 2 centimetri. No, sai cosa devi fare senza... Ti devi mettere in piedi, fermarti e scendere direttamente. Scendere con un piede. E beh, siccome tanto questo è da donna, no? Io direttamente sono andato a mettere i piedi tutti e due per terra, invece mi sono coricato alla parte, già da fermo, ero fermo, mi si è coricato sopra. E perché devi fare così, ti devi mettere dritto o con i pedali e poi scendere con un piede, ecco come devi fare, se non lo fa arrivare Rosellino. E quella è una cosa grave, Gio Maria, che è una cosa grave, la bicicletta sono come le scarpe, non ti deve stare né stretta né larga, perché se poi ti capita la caduta. Sei fortunato, diciamo, che hai i pedali normali, quelli, diciamo, che usano nelle biciclette di città. La mia c'ha quelli automatici e devi dare il colpo per sganciarli, se no ci rimane attaccata. Da parecchio non toccavo la bicicletta, però sono andato a mettere, pensavo che perché l'ho abbassato tutto completamente, però fino a quel tanto non abbassa, perché ci sono le molle dei sedili che toccano il coperchio della batteria, perché la batteria rimane tutta sotto il sedile, rimane, capito? E per cui ho detto, ma strano, ma devo risolvere questo problema, perché devo arrivare i piedi anche così, seduto del sedile, come fermo devo mettere i piedi e non mi dovrebbe succedere niente, però bisogna fare quel sistema, di trovare quel sistema di abbassarlo almeno 2 centimetri e sto pensando cosa fare. Ma io non ho capito, ma tu vuoi mettere i piedi a terra quando sei sul sedino? Perché no? E certo, questa è da donna, la bicicletta non è da uomo, per cui non ho capito, è da donna. No, così è più pericolosa, secondo me. No, ma io non tocco, cioè io, tutti quanti non toccano, quando sono sul sedino, non toccano per terra, capito? Quelle dei bambini toccano per terra, ma quelle degli adulti no. Non ho mai visto biciclette che toccano, che riescono i piedi a toccare per terra. Quando sei sul sellino, e sei anche distante da terra, anche per te, immagino che sia così, dipende dalla bici che hai. Ma viene contemporaneamente, perché io lo facevo sempre sull'altra, anche sulla mountain bike che avevo, l'ho regalata quella lì, e il sedile si abbassava completamente bene, e per cui arrivavo a terra anche seduto dal sedile, per cui ero tranquillo, come mi fermavo, avevo i piedi tutti e due per terra, anche con uno va bene. Ma su questo mi è venuta male, perché dove c'è il telaio, questa bicicletta è diversa la questione, perché c'è il telaio dove c'è la moltiplica, è tutta coperta di una tu già l'hai vista com'è, coperta, è venuto male a togliere il piede per scendere, me ne capisci? Oh, strano. Tu l'hai vista la bici? Sì, io l'ho vista, solo che quelle lì sono fatte così, sono fatte, più di tanto il sedile non abbassa perché tocca già la batteria, tocca, ce l'ha dietro, l'ho messa in un punto proprio bello, caspita, è una cosa proprio vera, vabbè, ma in genere molte volte si può usare con i pedali, ti metti dritto e poi scendi con un piede. Beh, io stavo pensando così, come si trova la batteria più piccola, infatti volevo telefonare a quello lì se avevo un po' quanto costava questa batteria e se si può mettere, perché c'è, l'ho vista, ma devo telefonare per un po' se a quella bicicletta si può piazzare quella leggermente, quasi 10 cm più corta. Capito, sarebbe l'ideale, sarebbe veramente l'ideale. Devo telefonare per un po' se si può mettere, se ci sta bene, secondo quanto costa la prendo, la tolgo con la cassetta e ci metto la più corta. A me si dire abbassa tutto completamente, io sto tranquillo, capito? Magari un ragazzino è già diverso, di giovane diverso, ma una persona di certa età, capito, se non appoggi i piedi per terra, che puoi fare tutti i movimenti che vuoi tutto. Bisogna fare un po' di pratica prima come scendere, ecco cosa è. Anche io nella bicicletta che ho io a pedali, quelle lì io ho il sedilino alto, mi ho messo il sedilino un po' alto, arrivo a punta di piede e arrivo giù quando mi devo fermare. Allora me ne scendo, rimango dritto e scendo dal pedale, scendo. Ma è facile, così va bene. Due centimetri, basta 2 centimetri, per la pezza e vediamo un po', là, non è un problema comunque. Adesso vediamo un po', se quando quanto costa non è preso, ma se io assolutamente, sempre se si può mettere la batteria più corta, perché ho visto, è precisa quella che so io, ma bicicletta c'è la batteria leggermente più corta, bisogna vedere. Vediamo, magari già salto per me le butto la sedile e mi blocco e un macello. Sto dicendo, mi è successo una volta, certo che non mi succederà più perché sono attento a queste cose, capito? Un sacco di patate, mai l'hai visto, così ho fatto io, meno male non c'era nessuno. Ma Giovanni, com'è? Al piombo o al litio con la batteria? A piombo, pesa con la batteria, è a piombo. Ah, ho capito. No, io pensavo che fosse al litio. Quelle lì al litio portano carucce, andiamo. Quella che ho io non lo so se costa intorno alle 600 euro. Ho pensato a quello, ma a formarmi no, certo costa così, no, me lo faccio, non li spendo più tanti soldi, magari cerco di fare pratica come ha detto Tori, piano piano, magari dove non c'è molto traffico e per cui riesco a mantenere bene le cose come devo fare. Insomma, che siamo più di 50 anni non so cosa la bicicletta, per immaginare il motorino, vabbè, però la bicicletta a pedalare con questa, perché c'è lo scatto della batteria che si dà, capito? E certe volte sa che cammina un bene, e a te fa mi sembra 35 km all'ora, 25 per legge, 25 o 25, cioè, no, 30, 25, no, non so, mi sembra che ho detto 25 30, una cosa del genere, comunque camminano. Non lo dire a me, Giammari, che ti ho detto che c'ho anche stamane. La mia ce l'ho da poco, perché io utilizzavo la mountain bike a gambe, però devo dire, nonostante fosse scettico, che ti permette di fare molte più cose. Stamattina ho fatto una salita proprio di quelle disgraziate, la salita del Puntagiglio, sicuramente la conosci, per andare alla casa smessa, ma non è tanto allegra, ecco. Otto, e quando comincia a essere un'ora così pedalando sempre, quando te ne scendi sembra che stai pedalando, lo fa quel difetto, lo fa quel difetto, a poi se c'è il segno è fine, è ancora peggio. In terra mi sembrava che pedalato stesso, boh, roba da pazzia. Ti immagini che arriva, dai, almeno, ma almeno abbassalo, ragazzi, mi faccio un po' di movimento alle gambe, ragazzi. Oh, già cammino magari qua, che qua il traffico non ce n'è tanto, per cui mi sta bene, capito? Ancora devo prendere pratica bene, dai. Sì, infatti. Bisogna a coso brufio. Bisogna fare pratica, bisogna fare allenamento alle gambe. Non è che fai forse rotto quella lì, forse non le fai, no. Magari salita per appena, ma non molto, ma salita parecchio. Ah, boh, senti la pedalata leggera in salita. Scusate. Va bene, va benissimo, capito? Però il movimento lo senti, dai. Poi fa bene, comunque fa bene, Giomari, la circolazione, tutto quanto. Quelle lì al piombo costano ovviamente enormemente di meno, ho fatto un controllo rapido dalle 65 fino anche alle 99 euro, dai. Costano molto meno, comunque poi dipende dal modello, è moltissimo. Sì, vabbè, magari anche se costa 80 euro, per dire, cioè, se è più corta mi sta più bene a me, perché io si direi me la abbasso tutto e so più bene, capito? Mi posso fermare tranquillamente, perché anche da seduto posso mettere i piedi per terra e rimango dritto, capito? Invece se trovi un vuoto come adesso, mi sembra così, però non fai tempo a saltarne, capito? E quello cosa mi succede? Un sacco di patate. Grazie. Però prima, adesso è chiaro, non mi succederà più perché sono attento a queste cose. Però se trovo la mattina a quel prezzo magari ci fai un pensierino, Ma devo telefonare a quelli lì, a vedere un po' cosa mi dicono. Ti conviene, mi vedi un po'. Tu come sei, Tore? A forza di gambe o forza elettrica? Io sono a forza di gambe e no, non ne ho preso io. Sto pensando di prendere direttamente tutto il kit e piazzarmelo, farmelo piazzare nella bicicletta. Sì, l'ho visto anch'io quello, però è troppo grosso, capito? E poi c'è anche un problema di autonomia. Perché lo sai, per quanto siano piccole le batterie al litio, occupano sempre il loro spazio. La mia è abbastanza grossa perché è la versione maggiorata anche al litio, però è sopra il... dove si mette la borraccia, per intenderci, sopra quell'ungaro lì, dove si mette la borraccia normalmente. Ho capito, no, ma è per la mountain bike è così il motore. Il motore, quello che ho visto io, costa 700 euro, però è un motore piccolo, ed è tutto in tutta la bicicletta, lo trovi. Non lo so che percorso fai, perché quando è elettrica, diciamo, è c'ha peso in più, richiede anche il telaio, capito? Infatti io di bici ne ho due, cioè quella diciamo a gamba che utilizzo anche, utilizzata per anni, regola da competizione ovviamente, e poi ho preso da poco, ti sto parlando di saranno due settimane questa qua, che è dell'Atala, però il telaio, benché sia in alluminio, è molto più robusto e proprio grosso, capito, per reggere proprio le vibrazioni, perché con una bici caricata, con una batteria così, con l'altra che ho, benché sia una bici da competizione, ma caricata con quel tipo di batteria in quel punto, con i colpi che ho preso stamane probabilmente mi si spacca il telaio, capito? Ho capito, no, quella che ho io è lo stesso, la mountain bike da, non insomma, da professionista quasi, però no, quella che ho io è leggera, lo stesso, la giubbaca da un montone di là, però adesso io, secondo come va, me ne voglio un'altra, a elettrico, così, mountain bike, lo stesso. Guarda, io ho trovato l'occasione perché era scontata, è un motore nuovo italiano, la M80, e la bici non, devo dire, presa da fuori non ti costa molto, nel panorama generale delle bici, a me è venuta 1580 con batteria da maggiorata, quindi in posizione minima dice che fa 160 km, poi ovviamente se richiedi più assistenza ne fa molti meno, comunque c'è la tabella comparativa. Ricarica velocemente, devo dire, perché poco fa l'ho messa in ricarica, in 2 ore era già pronta a riuscire, quindi va anche bene. Controllala e sono rimasto molto, molto soddisfatto. Il motore centrale ovviamente, perché se devi fare quei lavori ti occorre equilibrio sul mezzo, per ferrato eccetera, quello posteriore può creare dei problemi. Quindi motore centrale da M80 riguarda l'Atala B-Cross. Sì, ho capito, l'ho già vista quella lì, forse è quella che stavo pensando anch'io, perché l'ho vista sul catalogo, l'ho vista in internet, forse è quella che ho visto io. Sì, guarda, puoi contattare anche col venditore, che è gentilissimo, l'ho presa io su eBay, le telefoni, io l'ho chiamato prima ad acquistare, mi ha detto guarda ti faccio un ulteriore sconto se la prendi fuori eBay, così non paghiamo le cose, come si chiamano, le tasse da per eBay, tutto con la garanzia tranquillo eccetera. Io ho chiesto, c'è anche a Sassari quella, solo che li ho chiamati e mi hanno detto partiamo da 2000 euro, 2000 euro sono già 500 euro in più quasi. Infatti, io ho chiesto quello che c'è su in via Napoli, che è tratta lo stesso, l'Atala, e mi ha detto che parte da 2000 euro, anche a me mi ha detto, e ha detto io vabbè, ci penserò oggi. Ci lascia parlare in internet coso, e mi sta dicendo che bisogna telefonarmi a fine anno a Baia di Gerici a Pigliammira. Sì, infatti la mia è arrivata con Bartolini un paio di giorni, cioè direttamente dall'Atala, perché loro fanno la richiesta e se la manda, si arriva da Milano la Cinisello Balsamo dall'Atala di Milano, già montata, tutto, tu devi solo regolarti lo sterzo, cioè ti appesa un raio, 30 kg di spedizione perché ti sei imballata eccetera, quindi il peso c'è, sono abituato come lo ero io a quella da a mountain bike da competizione, sono dolori, però ripeto la usano per fare cross anche, quindi si difende molto molto bene con la bici, ho visto. E così riprendi Gio Marì. Ok, Sì, ce ne sono belle, ce ne sono molto belle. Accostano la salsa, costano parecchio. Ma è quello del bacchino, come? Dove c'era la batteria? Nel bagagliaio di dietro? Sì, c'era nel bagagliaio di dietro. Là dietro proprio, dopo non è attaccata sopra, c'è il parafango e poi c'è il coso che rimane tipo portabagagli. Lì ce l'ha. Ok. E quelli che hanno il motore verso centrale in mezzo, che rimane più equilibrata, così è già fra. Sì, Giomari, è una bici più da competizione, perché oramai ci sono anche quelle elettriche da competizione. Tra l'altro mi hanno detto che, non so se domenica o quando era, c'era qualcosa al vero proprio di bici. Fanno proprio le gare. Se guardi su YouTube, ad esempio, ci sono i filmati che ma sono pazzi, e se lo faccio io probabilmente mi leggete sul giornale il giorno dopo, su quell'ultima vetrina dell'ultima pagina, perché sono percorsi proprio disgraziati, ma con la bici, con la mountain bike normale è impensabile fare quelle salite con quel tipo di terreno, perché ci vorrebbe una forza pazzesca. E il vantaggio è che quando raggiungi una certa età, che ovviamente non sei più con un ragazzino, è ovvio, ti puoi fare sempre le salite, c'è quell'aiutino che ti aiuta, ecco, insomma, ti permette di fare quello che altrimenti sarebbe troppo troppo faticoso, e soprattutto ti permette di fare molti più chilometri, perché quando c'è un'autonomia del genere i pedali devi sempre girare, quindi se non sei allenato sono dolori, però è così. La bici con motore, come ce l'hai tu dietro nel coso, nella ruota posteriore, è buona lo stesso, però risulta più squilibrata per fare il cross, capito? Potresti anche slittare, ti assicuro che lo slittaggio lo fa soprattutto quando incontri ciotolame vario, capito Giovanni? Infatti. Ebbene signoria, vi devo lasciare che mi stanno chiamando. Va bene, dai, ci sentiamo domani se Dio vuole, se tutto va bene. Grazie alla piccola chiacchierata e ci sentiremo alle prossime. C'è stato un importante, riprendi tu e io ascolto per il piano e chiuso che mi stanno chiamando. Ok, ciao Franco, ciao Tore e buonasera agli ascoltoni. Riprendi tu. Ok, ci sentiamo alle prossime. Ciao Gio Maria, a domani. Ti prendi Gianfranco. Sì, ciao Gio Maria, buona serata, alle prossime, vediamo se vuole entrare. Che ha bussato, va? Niente, è solo portante, sente il bip di fine trasmissione, ma niente voce. Ma chi se sei tu, non stai uscendo? Sì, a fischi adesso sì, però non si è compreso nulla. Come stavo provando, siccome con quell'inter che avevo, mi sono accorto che il filo staccato. Si è staccato di dove? Del microfono? L'antenna dietro, è staccato il filo di saldato. L'ho saldato, però bisogna saldare anche dietro ancora, perché è il ballerino. Ah, e allora te lo devi mettere a posto bene. Sì, dai, continuo il lavoro. Ciao Gianfranco, buonasera anche a Tore, buonasera anche agli ascoltoni. Io un saluto, faccio in cuore Ickis, perché devo finire, c'è un po' fa buio. Ciao Tore, quindi. Sì, ok, ciao Bacchi, ci sentiamo alle prossime. Mettiti a posto tutto, ok. Ti prendi Gianfranco. Sì, ciao Bacchi, buona serata e buon lavoro. Sì, è così. Il fatto che io ero anche convinto che ero molto tradizionalista, no? Con le bici muscolari, adesso le chiamano così. ed ero molto scettico su queste elettriche, dicevo che un po' erano bici per chi non voleva, non voleva faticare, in parole povere. Però devo dire, dopo averla provata, che la fatica c'è lo stesso, aumentano i chilometri e insomma io la uso molto anche senza niente, solo in modalità pedalata muscolare. E poi quando mi stanco attacco anche il motore, o quando ci sono salite un pochettino pesanti, perché la bici ovviamente pesa. Però ti devo dire che la fatica, cavolo, insomma, si fa sentire. Io non ho mai utilizzato né l'ingranaggio grande, neanche il neanche la modalità proprio di forza, perché di lì veramente ero a una potenza esagerata. Preferisco stare su 1, 2, massimo 3 in salita. Sopra, io ti devo lasciare perché mi ha chiamato la signora di andarla a prendere. Ci sentiamo alle prossime, ok? Ciao Gianfra. Anche a me infatti stavano chiamando, ma sono fatto apposta. Ciao Tore, ciao anche Bacchino, ciao a tutti gli altri che sono in ascolto, anch'io devo scappare. Buona serata a tutti.